tu stai per 25 anni a produrre delle cose considerate le migliori di quelle che vengono trasmesse in televisione e di botto si chiude la trasmissione, arrivederci perché la vedono troppo pochi, sarà anche una cosa impeccabile, ma lo share prima di tutto. Una volta la televisione era un punto d'arrivo, cioè uno quando arrivava in televisione diceva ammazza, sono arrivato in televisione. Oggi la televisione è un punto di partenza. E oggi c'è sempre un tavolo con quattro giurati che giudicano sempre qualcuno dalla mattina alla sera. Ci sono palette ovunque, palette, votazioni, tu vuoi eliminare questo, via questo, fai... è solo quello. Non ci si è più abituato, neanche il pubblico è abituato. Oggi il pubblico si sta disabituando a vedere uno spettacolo dove ci sia solo varietà. Perché è cambiata in molto peggio. Oggi non se lo sognerebbero più uno spettacolo come quelli. Quando fanno delle repliche sembra un'altra televisione, sembra un'altra cosa. Non sembra la Rai, capito? Voglio dire, quindi è cambiata totalmente. Enrico Vaime, autore televisivo e conduttore radiofonico, qual è il programma di Antonello Falqui che le piaceva di più? Beh, quelli nei quali ero coinvolto mi piacevano particolarmente, è chiaro che non sono obiettivo. Ne ha uno preferito? Il programma preferito, devo dire, era una serie di special che abbiamo fatto nel, pare, 69 o 70, con grossi personaggi come Patti Pravo, Morandi, Le Kessler. Cos'ha di originale questo grande regista? Ma ha un brutto carattere e questo lo aiuta perché è molto pignolo e che può essere anche un difetto se uno ci lavora insieme, ma invece migliora la qualità del prodotto, è molto preciso, è molto attento. Devo dire che lavorare con lui era comunque rassicurante per un professionista che vuole essere garantito sul piano della qualità. Falqui è stato un grande regista, ma non solo italiano, io direi europeo, perché noi parliamo sempre delle cose del cortile di casa nostra. Falqui è un regista a livello continentale, come lui ce n'era un altro in Francia, che era Jean-Christophe Averty, che è stato un inventore di un certo modo di fare la televisione, che in qualche modo Falqui, pur non conoscendolo, ha tenuto in considerazione poi nel tempo. E insomma, voglio dire, sono stati due maestri, non si può negare, con un Antonello con un brutto carattere, ma per fortuna sua. Lei scriveva anche i testi dei programmi di Falqui. Quanto durava, ad esempio, la scrittura di una puntata? Ma noi eravamo praticamente reclusi quando c'era da lavorare con Antonello, perché si lavorava tutta la settimana, questa è la verità. Ma secondo lei un varietà come quello di Falqui si potrebbe fare oggi? Ma chi se la sente? A parte i costi, che allora si poteva sostenere, oggi è già più difficile. E poi non ci sono professionisti come c'erano allora, i nuovi sono diversi in qualche modo, non dico né meglio né peggio, ma non sono come quelli lì. E a chi lo farebbe condurre? Io Walter Chiari, ma insomma non c'è più. Quindi... Grazie Enrico Vaime. Prego. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.